y solo pensiero de haberte acanto me ayuda ad andare avanti finché saremo insieme. Nulla può accadere, siamo due angeli con una ala sola. E per volare, uniti si deve restare. Abbandonarsi nell'aria senza mai atterrare. I nostri occhi, una prova chiara e trasparente di un'amicizia importante. Sei la cosa più bella che io possa avere, sei la risposta alle mie domande. Ora lo sai, da me tu non puoi fuggire. Non dimenticare, con te sarò per sempre, baby. E per volare, uniti si deve restare. Abbandonarsi nell'aria senza mai atterrare. I nostri occhi, una prova chiara e trasparente di un'amicizia importante. Chiusi, volando nel vuoto senza respirare. Un brivido sale, si appoggia sul cuore. Ti va di gridare, pensi di morire. E per volare, uniti si deve restare. Abbandonarsi nell'aria senza mi atterrare. I nostri occhi, una prova chiara e trasparente di un'amicizia importante. E per volare, uniti si deve restare. Abbandonarsi nell'aria senza mi atterrare. I nostri occhi, una prova trasparente di un'amicizia sempre più importante. E per volare, uniti si deve restare. Abbandonarsi nell'aria senza mai atterrare. I nostri occhi, una prova chiara e trasparente di un'amicizia. Amicizia sempre più importante.